Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, Grecia, ma non solo. Si tratta ancora, per quello che sembrava essere un salvataggio già deciso, in sostanza la Grecia ha chiesto 2 anni in più di tempo per ripagare i suoi debiti, che vuol dire, come sa chiunque ristruttura un debito anche nei confronti di una banca, vuol dire un costo ulteriore per i paesi che hanno prestato soldi. Si ragiona sui 20 miliardi di euro. Dicevo, ieri in serata sembrava che l'accordo fosse fatto, poi il no tedesco ha bloccato tutto. Si tratta adesso per una cifra più bassa, sui 10 miliardi di euro, preoccupazione anche della Casa Bianca, che vorrebbe che invece attraverso anche il Fondo Monetario, chi dà i soldi alla Grecia, infatti sono Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Commissione Europea, la cosiddetta Troica, si agisse in maniera più spedita. Barack Obama teme molto che la Grecia riproduca e riproponga un effetto contagio in Europa, ma non c'è ancora un accordo ufficiale. C'è però, e quello lo abbiamo raccontato anche nei nostri GR, l'accordo a Bruxelles per quello che riguarda i fondi per i terremotati italiani, sì, definitivo della Commissione Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo per il Fondo di Solidarietà Europeo da 670 milioni di euro per il terremoto in Emilia. 661 sì, 17 no, 6 astensioni. Non c'è accordo, invece, si tratta ancora sul bilancio dell'Unione Europea. È il bilancio, il budget 2014-2020. Van Rompuy, il Presidente del Consiglio europeo, aveva detto 1.010 miliardi in 6 anni, 138 solo nel 2013, distribuiti in questo modo: fondi per la coesione 49 miliardi, che sono quelli che servono alle aree più depresse, il nostro mezzogiorno, ma non solo, anche parti della Spagna, del Portogallo e chiaramente della Grecia, ma no, ma e di altri paesi dell'est. Agricoltura, la PAC, 44 miliardi. Attenzione, l'agricoltura europea e quindi anche italiana, gli unici soldi che riceve, o la stragrande maggioranza dei soldi, degli unici soldi che riceve, sono di matrice europea. È un tema, infatti, quello prettamente comunitario, per cui questi soldi sono poi gli unici soldi che vedono gli agricoltori in Italia. 44 miliardi sarebbero in tutto. Sviluppo rurale 14 miliardi, competitività 13 miliardi e mezzo, aiuti allo sviluppo 7 miliardi, poi sicurezza e giustizia. L'Italia ha un saldo negativo, ossia versa più di quanto abbia ricevuto, per 5 miliardi di euro. Il governo ha detto: attenzione, o abbiamo uno sconto oppure porremo anche il veto su questo. Ma Angela Merkel ha detto: beh, se non troviamo un accordo tra domani e dopodomani al vertice di Bruxelles, potremmo varare il budget europeo nel 2013. Ancora Angela Merkel dice: questo è il governo di maggior successo in Germania dalla riunificazione, e va bene, la Germania sta uscendo dalla crisi, dalla crisi siamo usciti rafforzati. Ora sì, siete usciti rafforzati perché avevate fatto i compiti a casa prima, ma anche perché questa crisi, per la piega che ha preso nell'ultimo anno e mezzo, andando a attaccare in maniera, a mio avviso, anche ingiustificata, dopo la Grecia, Spagna, Italia, così, ha avvantaggiato in maniera indiretta la Germania, sia come tassi di interesse praticati, e quindi quello che è il costo del denaro per le imprese tedesche, sia perché chiaramente l'ha resa il paese di riferimento e il paese che sta dettando ancora le regole. Di questo parleremo in 2 occasioni, sia come Grecia sia come bilancio europeo. C'è una coda al tema di ieri, il reddit test e poi l'anagrafe tributaria. Oggi Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, era ospite di Oscar Giannino 9 in punto. Ascolteremo alcuni passaggi e fermo restando appunto la nostra linea sull'evasione, la conoscete molto bene. Befera ha rassicurato che il nuovo sistema prevede delle garanzie e che vi sarà molta attenzione nell'applicare il nuovo redditometro. Tra poco ci arriviamo. 349 238 6666 per i vostri SMS. Parleremo anche dell'accordo sulla produttività, quello che verrà firmato alle 18.30 senza la CGIL, a meno che non cambi qualcosa da, all'improvviso. Resta il no della CGIL. Oggi l'Istat ha fatto sapere che la produttività in Italia è ferma da 20 anni. Pensate, nel periodo 1992-2011 è aumentata dello 0,5% in tutto, in 20 anni, cioè niente. È cresciuta in realtà un po' di più quella da lavoro, che ha fatto più 0,9%, ma siamo sempre a cifre risibili in 20 anni, e meno, e invece è calata quella da capitale, meno 0,7%. Anche di questo parleremo nel corso del programma. Come vanno i mercati? Devo dire abbastanza bene. Milano la migliore, più 1%, Parigi più 0,60%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,14%. Perché questo? Perché vanno bene le banche a Milano, e vanno bene perché lo spread, ossia la differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto non costa invece alla Germania, si è ridotto, ossia è sceso sotto i 340 punti, è arrivato a 337-338, anche quello spagnolo è a 428 punti. Praticamente un BTP italiano a 10 anni rende il 4,83%. Per cento, reazione positiva delle banche che in pancia hanno tantissime obbligazioni italiane, quindi festeggiano ogni volta che lo spread si riduce. Popolare di Milano più 3,5, Intesa San Paolo più 2,90, e poi ancora Popolare Emilia Romagna più 1,30%, Unicredit più 1,11%. Bene oggi di Assorin più 3%, Mediaset più 2,80, Enel più 2,20 come Lottomatica. E poi ST Microelectronics più 1,85%. Chi perde? Poco oggi. Ansaldo CTS meno 0,90%, Buzzi Unice meno 0,60%, Mediobanca meno 0,60%, Azimut meno 0,40%. Le altre notizie in breve. Vedo alcuni messaggi ancora sull'intervista di ieri a Azzurra Caltagirone. Vabbè, ripeto, fa parte di un ciclo di interviste che è già iniziato, non è iniziato ieri. Abbiamo avuto Rodolfo De Benedetti, Scott Iovine, e quindi Gruppo Espresso, Gruppo Rizzoli. Ci piacerebbe avere anche Pier Silvio Berlusconi, o comunque chi fa anche il vicepresidente nel gruppo Mondadori e Mediaset. Il tema è ragionare anche sul futuro dell'editoria, così come parliamo di qualunque settore, parliamo anche di questo. E chiusa qui la parentesi. Invece, per quello che riguarda i mercati, al di là del barile del petrolio che è fermo a $87, segnalo di Europa, abbiamo già ampiamente parlato, e anche della produttività. Segnalo che l'ABI registra sofferenze bancarie in aumento, a settembre sono oltre 67 miliardi, su base annua sono 12 miliardi in più rispetto all'anno scorso, più 21%, e ancora segnalo che è crollato, ma anche domani se ne occuperà anche Deborah Rosciani con Savadanaio, è crollato il mercato delle compravendite, meno 26% nel terzo trimestre, il dato è dell'Osservatorio Immobiliare, il che vuol dire, dell'Agenzia del Territorio, che il numero di compravendite nel 2012 sarà presumibilmente sotto le 500.000, cioè il numero di case vendute e chiaramente comprate in un anno sotto le 500.000, vuol dire il livello che non si vedeva da metà degli anni 80, quando il mercato immobiliare prese una frenata che, se voi ricorderete, poi durò fino a quasi alla fine degli anni 90. Che non vuol dire che andrà così, dico solo che meno di 500.000 di compravendite immobiliari non si vedeva da metà degli anni 80. E l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, dice: attenzione, gli investimenti sono scesi del 6%, dal 2008 è un meno 25% nell'immobiliare, meno 44% nelle nuove case, il mercato è previsto in calo fino al 2014. Lo dice Nomisma. C'è chi scrive al 349-238-6666, ma insomma, non crescono però non calano però i prezzi. Beh, non è vero, anche i prezzi hanno iniziato a muoversi, il dato l'abbiamo raccontato 3 settimane fa. Sappiamo tutti che c'è una certa resistenza, vischiosità. Prima calano le compravendite, cioè uno aspetta, si aumentano i tempi in cui tu riesci a vendere una casa perché aspetti l'offerta. Poi a un certo momento, se non riesci a venderla, inizi a abbassare i prezzi. Questo è il meccanismo, ecco perché non si vede un calo netto dei prezzi. Però fermo restando che negli immobiliari i prezzi non calano mai a livello del mercato immobiliare, cioè della borsa, però attenzione che un meno 3% proposto per anni significa poi un meno 12, meno 15, che con i prezzi che ha una casa è tanta roba, eh? Allora, abbiamo, prima di arrivare al primo appuntamento, cioè il fisco, perché parliamo adesso di evasione fiscale, qualche notizia sulla crisi degli altri ce l'abbiamo. Devo dire che arrivano anche notizie non belle di un'inchiesta che avrebbe aperto la procura di Roma su particolari favori fatti all'ex governatrice del Lazio Renata Polverini e ad altri esponenti in merito appunto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Ma prima di arrivare a questo vorrei raccontare ancora così, purtroppo dobbiamo tornare sulla Sicilia e parlare anche di quello che possiamo tranquillamente definire il paradiso degli assenteisti. Abbassare, buttare anche più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Allora, il paradiso degli assenteisti per ora sta a Modica, dove 8 impiegati su 10, Modica in Sicilia, sono a giudizio. E pensate che l'assenteista più organizzato era in grado di entrare nel sistema informatico del comune, modificava l'orario di ingresso e uscita dell'ufficio, e anche se quel giorno non ci aveva mai messo piede, cioè vuol dire, è quasi da premiare, è un hacker dell'assenteismo, cioè, non so se in America esistono hacker dell'assenteismo, però... Ma non era solo il municipio di Modica, perché secondo la procura, che ieri ha chiesto il rinvio a giudizio di 106 dipendenti per truffa aggravata, falso ideologico, era ormai prassi consolidata. L'inchiesta è partita nel 2009 da delle segnalazioni dei cittadini, quindi vedete che poi serve anche segnalare le cose, e per ora si è concentrata solo su Palazzo San Domenico, quindi al comune di Modica, dove lavorano 126 dei 542 dipendenti. L'86% dei dipendenti non rispettava gli orari e il 7 marzo dell'anno prossimo dovrà presentarsi davanti al giudice. Non vorrei che finisse come però, dice il sindaco, come per quel dipendente della presidenza del Consiglio Comunale che, avendo ammesso la sua responsabilità davanti ai giudici, è stato poi reintegrato al lavoro dal Tribunale del Lavoro. Ed è lui l'uomo dell'orologio segnapresenze, quello che aveva modificato e violato l'accesso, aveva infatti la password d'accesso al sistema informatico. Pensate che lui entrava, modificava l'orologio dei pochi secondi che gli servivano per strisciare la testina magnetica, rimetteva tutto quanto a posto, ma sembra un film questo, e licenziato dal giudice reintegrato, ora adesso è in pensione ed è di nuovo nella lista degli indagati. Ma cosa facevano gli assenteisti? Non dice. Allora, siccome i poliziotti finanziari li hanno anche seguiti, pensate che cavolo di spreco anche di risorse. Allora, ce n'era uno che si chiudeva nel garage di casa ad ascoltare musica. Un altro, addirittura, venne visto una sera entrare in municipio, nonostante fosse chiuso, timbrare il cartellino e riuscire, così risultava in straordinario. Un altro se ne stava seduto abitualmente a tavolino di un bar del centro, e un'altra andava a far visita agli amici con il marito. Qui adesso io capisco la guardia di finanza e i poliziotti, ma qui è un problema di senso civico, non è neanche un problema di reato, cioè è un problema di di responsabilità. Certo che vanno, se verrà dimostrata la colpevolezza, cacciati e rapidamente anche, però voglio dire, non ci sarà mai, non ci saranno mai abbastanza magistrati e poliziotti per quando tu, voglio dire, te ne freghi allegramente della tua responsabilità sociale. E sempre sulla Sicilia, a Bruxelles. Allora, io spero che il neogovernatore Crocetta, dopo l'iniziativa meritoria sui 21 caporedattori dell'ufficio stampa, voglia intervenire anche sulla sede di Bruxelles della Regione Sicilia. Inaugurata nel 2010, è bella, ma non ha un riscaldamento centralizzato funzionante. Le hanno anche tagliato per 6 mesi telefono e internet, perché Palermo non mandava soldi. Allora io chiedo, ma se non c'avete riscaldamento, non c'avete il telefono, non avete internet, che cosa tenete aperta una sede da 750 metri quadri in cui sono rimaste 3 persone, nel 2010 erano 14, è accanimento terapeutico, ma mandatele a casa, fatele rientrare in Sicilia. È costata 2.700.000 euro più la ristrutturazione. Sono in 3, il direttore Maria Stimolo, un funzionario e un giornalista, Gregorio Arena, che Crocetta ha detto: sono stato 12 volte nell'ufficio della Regione Sicilia a Bruxelles, non ho mai visto il giornalista distaccato. Gregorio Arena guadagna 12.000 euro netti al mese, ha fatto anche un'intervista delirante poco fa, ha detto guadagno meno di un bidello, cioè, Arena torna a casa, voilà, torna a casa Arena e vieni qua, uno stage c'è per tutti, ma cioè, 12.000 euro netti al mese per fare il giornalista nella sede della Regione Sicilia a Bruxelles, obiettivamente grida vendetta. E adesso un tema che vorrei trattare con le pinze, perché non so, c'è un'indagine in corso, voi sapete che noi con la Regione Lazio non siamo mai stati teneri con nessuna giunta, però qui c'è un'inchiesta della Procura che praticamente sta indagando sui privilegi che un primario dell'ASL dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma avrebbe concesso a parenti e amici di alcuni personaggi come l'ex governatrice della Regione Lazio Renata Polverini, del generale della finanza della Guardia di Finanza Emilio Speziante e anche del vice sindaco di Roma Sveva Belviso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo affidato al PM Stefano Palazzi. Sostanzialmente l'accusa è che questi personaggi avrebbero usufruito di trattamenti particolari, gratuiti e speciali per la fisioterapia e per altri tipi di servizi pubblici, senza prenotare, senza pagare alcun ticket, solo a carico del contribuente. Analisi del sangue, visite chirurgiche, urologiche, medicinali ritirati dal reparto di ortopedia e forniti gratuitamente. Anche il generale Emilio Speziante avrebbe usufruito di numerosi piaceri in ambito medico, lui e la sua compagna, accertamenti diagnostici, tutto in tempi brevi e senza pagare alcun ticket. Ora, io spero che sia tutto falso, perché sarebbe gravissimo, a maggior ragione per il generale Speziante, una cosa del genere. Ricordo anche che in quel periodo noi ci occupavamo, cara governatrice Polverini, di una vicenda che riguardava l'ospedale Santa Lucia per bambini, ma non solo, con grossi problemi psicomotori, in cui gli infermieri e i medici e i dipendenti non venivano pagati da mesi, era il 2010, e la Regione Lazio diceva che non trovava i soldi. Ora, voglio dire, ma immagino che non sia vero che mentre da un lato non si trovano i soldi, lei e altre, diciamo, persone a lei vicine avevano questo accesso per visite senza ticket, saltando la fila e quant'altro, perché sarebbe gravissimo e sarebbe la dimostrazione del perché, diciamo, il corpo elettorale si sente leggermente distante da questo tipo di politica. Ho chiuso, partiamo con l'evasione fiscale. Faremo un uso del nuovo redditometro molto cauto, il margine di coerenza sarà ancora maggiore rispetto al 20%, il redditest di cui parlavamo ieri, uno lo fa se

17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fermo restando l'inchiesta della magistratura sull'assenteismo a Modica, diamo a Modica ciò che è di Modica. 550 dipendenti comunali per 55.000 abitanti è una media assolutamente legittima. Abbiamo appena verificato, a Roma, Milano in proporzione ce ne sono di più, il che non vuol dire che Roma e Milano vadano sempre bene, anzi, però non si può dire che in questo caso, lo dico agli ascoltatori, a Modica ci siano troppi dipendenti comunali. Altra cosa è che 86 su 120 controllati andassero allegramente al bar o a casa o in garage a ascoltare la musica. Però come numero, perché bisogna essere corretti su questo, il numero è più alto a Roma e a Milano in rapporto agli abitanti. Detto questo, una ballata dell'euro per la Grecia, ieri sembrava cosa fatta e invece si è risvegliata la cancelliera tedesca Angela Merkel. Vittorio D'Arolde è di nuovo qui con noi. Fammi dare solo una risposta a un ascoltatore che dice il debito pubblico non l'ha creato l'evasione ma gli sprechi della pubblica amministrazione. No. Il debito pubblico l'ha creato una cattiva gestione delle risorse, perché tu, se tu vai in deficit ogni anno dai governi degli anni 80 in poi, dal governo Craxi in poi, è chiaro che aumenti il debito a dismisura, abbiamo tutta la statistica. E questa è colpa della classe politica e di non aver saputo portare il bilancio in pareggio, di aver speso più soldi di quanti non ne avesse. Ma attenzione, noi ogni anno abbiamo 150-200 miliardi di imponibile che viene evaso, stando bassi stiamo parlando di qualcosa come 90-100 miliardi di mancati introiti per lo Stato. Ora non veniamoci a raccontare balle, siccome il deficit è al 3%, che vuol dire 45 miliardi, se noi recuperassimo su 100, diciamo la metà, avremmo risolto il problema del deficit del paese, ok? Per cui il debito è colpa della cattiva amministrazione dei soldi e dell'enorme evasione che questo paese ha, secondo solo alla Grecia. Non raccontiamoci altre palle, per favore. Vittorio D'Arolde, che è successo ieri sera? A sorpresa la Germania ha freddato tutti. Sì, esattamente. Ci si aspettava una soluzione, un accordo tra appunto i creditori, che erano rappresentati dai paesi appunto dell'Eurozona, e poi c'era anche un rappresentante della Banca Centrale Europea e il rappresentante del Fondo Monetario, Christine Lagarde, che era stata a suo tempo anche ministro delle Finanze, che aveva dato la famosa copia del dischetto di evasori fiscali trovati nella filiale di Ginevra della HSBC. Appunto, c'erano appunto anche dei greci che finalmente sono stati pubblicati da un coraggioso giornalista greco, che dopo 2 anni che questo dischetto era stato dato dalla Lagarde, che allora era ministro delle finanze francese, al collega greco Papa Costantino, dopo 2 anni non si era ancora nemmeno aperto nessun procedimento. E quindi dopo appunto questo coraggioso giornalista ha pubblicato su un suo sito questo elenco e naturalmente è stato subito processato. Comunque ieri sera la Germania ha fatto appunto ancora diciamo freno. Perché? Perché la Lagarde vuole, il Fondo Monetario vuole arrivare a concludere, insomma a stabilizzare il debito greco, che dopo tutti i soldi che gli sono stati dati, 240 miliardi tra primo e secondo piano di aiuti, i 100 miliardi, ricorderete, di ristrutturazione pagati dai risparmiatori privati, perché c'erano dentro i risparmiatori privati, 100 miliardi, il più grande della storia moderna. A questo punto, la sesto anno di recessione, i conti della Troica sono stati completamente sbagliati e il debito greco oggi è ancora al 140% del PIL. E quindi non ce la fanno. Come fare? La Lagarde chiede una ristrutturazione, cioè ancora una volta prendersi una parte delle perdite, ma la Germania la signora Merkel, che vuole vincere le elezioni a settembre 2013 e quindi vuole presentarsi ai suoi elettori dicendo: non ho dato un euro in più, e non ho speso, non ho perso un euro nei confronti della Grecia, che viene considerata soprattutto dai della CSU, dei bavaresi, dei liberali che sono suoi diciamo partner di governo, un pozzo senza fondo, e quindi vorrebbero farla uscire dall'euro. Allora non vuole avere questo problema, e quindi fino a settembre 2013 ci sarà un continuo tentativo di tenerli, di dargli, ma non risolverlo. La Merkel oggi ha proposto di dare 10 miliardi al fondo salva stati e IFSFF come misura possibile. Non bastano, però, mi sembra di capire. No, perché tu con questi 10 miliardi che dai all'FSF, che poi servirebbero probabilmente a comprarsi in un buyback dei bond greci in mano, delle obbligazioni greche, che sono, le comprerebbero a 30-35 centesimi, quindi ci farebbe un certo senso, ridurrebbe il debito della Grecia a un costo letteralmente basso. Però il problema è che è un sistema come quello di tagliare i tassi di interesse, no? O come quello di fare una moratoria per non pagare gli interessi, oppure allungare la scadenza per ridare i 53 miliardi che tutti insieme, Italia compresa, abbiamo dati alla Grecia. Perché ricordiamocelo, noi molto del nostro deficit è anche perché noi abbiamo aiutato Grecia, Portogallo, Irlanda. Ci sono due fronti qua, ci sono 15 miliardi in più causati dall'aver spostato, dilazionato per due anni il rientro dal deficit. Esatto. E poi però bisogna capire come ridurre il suo debito greco, che ormai è al 170% del PIL. I paletti fissati dalla Troica dicevano: entro il 2020 devi scendere al 120%. Ora, ridurre il debito del 60%, del 50% in 7 anni vuol dire una roba tipo il 12-13% all'anno. Cioè, pensate, se noi dovessimo ridurre 12-13% per l'Italia vorrebbe dire qualcosa come 180 miliardi di euro all'anno per 7 anni di minor debito. Ora, no, è dura. Detto questo, dopo il traffico, per concludere, Vittorio, vorrei capire: ma la Grecia continua a aumentare sto debito perché le misure che le stiamo dando, invece che far risollevare il paziente, fanno peggiorare le sue condizioni? Cioè, perdonatemi il termine, gli stiamo dando una chemioterapia a un paziente che magari ha un altro problema, e quindi peggioriamo il suo sistema immunitario, o perché non hanno fatto i compiti loro, cioè non stanno facendo i bravi pazienti? Perché nel secondo caso allora bisogna tenere botta e essere ancora più duri. Nel primo caso, se noi con i tagli che abbiamo chiesto facciamo peggiorare il ciclo economico greco, hanno sempre meno soldi, sempre più disoccupati, e quindi sempre meno soldi che entrano nello Stato, aumenta sempre di più il debito e chiediamo ancora più tagli, quello si chiama circolo vizioso, e se ne esce solo in un modo, no? In orizzontale. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, fra poco arriviamo anche alle borse. Allora, Vittorio D'Arold, delle due l'una: o la Grecia non sta rispettando gli accordi, oppure le medicine che stiamo usando per curare il malato greco lo stanno facendo peggiorare la sua situazione, e bisognerebbe cambiare medicine se le reazioni del paziente sono queste. Sì, esattamente, è questa. Cioè l'austerity, sì, di troppa austerity si può morire. E lo stesso Fondo Monetario ha ammesso che gli effetti recessivi che loro avevano calcolato dello 0,5 rispetto alla crescita, in realtà si sono sbagliati e hanno ammesso nell'ultimo outlook che era dell'1%, però è il doppio. Quindi la recessione è diventata il doppio di quella che si prevedeva. Hanno sbagliato anche delle inflazioni, previsioni di inflazione, hanno sbagliato i tassi Scusami, chi? L'Europa, la Troica? La Troica, la BCE. C'è un grafico che fa vedere come tutti gli anni la Troica faceva una previsione di crescita che veniva costantemente sbagliata. Però se tu hai la crescita che si riduce, immediatamente il deficit aumenta. Lo spieghiamo sempre, è un rapporto, non è il numero assoluto. Esattamente. Tu puoi avere 1.000 euro di debito, ma avere una crescita e quindi un PIL diciamo di 10.000 euro le reggi. Se tu hai 500 euro di debito, ma il tuo reddito è sceso, il tuo affari, il PIL a 5.000 o a 4.000 euro, le reggi molto di meno. Per cui il problema è quanto cresce il PIL. Esattamente. Dico agli ascoltatori, Attenzione, noi siamo così concentrati sulla Grecia, non solo perché è notizia che riguarda l'Europa e l'euro, ma anche perché vorremmo capire se le ricette imposte alla Grecia, la prima che ha iniziato a sottoporsi a questa terapia, poi non portino l'effetto contrario, ok? Se si fanno solo tagli, tagli, disoccupazione, perché le stanno imponendo anche a noi e anche alla Spagna. Allora non vorremmo, cioè quello purtroppo la Grecia per alcuni versi fa da cavia, Vittorio. Sì, ma è esattamente così, proprio quando cominciò, ormai guarda sono 3 anni perché cominciò nell'ottobre del 2009, quando cominciò ci fu un modo, addirittura l'Unione Europea litigò fra di loro perché non volevano che il Fondo Monetario partecipasse all'aiuto, addirittura non volevano aiuto da parte del resto della comunità internazionale, si persero 6 mesi, arrivò maggio 2010 e il costo era già salito da pochi, erano 20 miliardi, arrivò a 110. Non mi ci fa pensare perché diventa, comunque, una bestia ogni volta. Tu lo sai, noi abbiamo firmato il Fiscal Compact che ci impone di ridurre di un ventesimo all'anno il nostro debito. Però io sento parlare non ho ancora sentito nessun candidato futuro. No, devo dire, devo dire perché ero presente che durante il confronto per le primarie su Sky. Vado a memoria, ma sicuramente Bersani e anche Renzi e Vendola del Fiscal Compact hanno parlato, cioè noi abbiamo firmato un accordo per cui andiamo a fare tagli da qua al 2020 per portare il debito al 60%. Se l'economia non cresce, questi tagli vogliono dire maggiore recessione, devono capirlo anche i tedeschi. Dopodiché è giusto ridurre il deficit, ma di quanto tu lo riduci è come dire uno che è sovrappeso, se tu inizi a fargli perdere 10 kg al giorno questo muore, altra cosa che tu faccia una dieta che ha un senso. Non mi guarda male il tecnico perché si sente coinvolto, no, non ce l'ho con te, però dico no, allora attenzione che continuiamo a ripetere un messaggio chiarissimo, non mi far pensare a quanto poco ci sarebbe costato salvare la Grecia prima che la cancelliera si mettesse di mezzo, perché altro che 200 e passa miliardi. Avremmo speso qualche decina di miliardi senza scatenare l'attacco. Questo non vuol dire che non ci sono anche delle colpe, ma ne abbiamo sempre dette. No, abbiamo detto l'evasione, vivono di sopra delle loro possibilità. Cosa facciamo? Li buttiamo tutti quanti a mare? Cioè, una volta che abbiamo detto che sono greci e che devono rimettersi in riga, nel frattempo, che facciamo? Vabbè, grazie, Vittorio D'Aroldo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di borsa e poi del budget europeo, importantissimo perché si decide poi quanti soldi ogni paese riceverà. Noi siamo contribuenti netti, cioè diamo più di quello che riceviamo, per almeno 5 miliardi di euro, e ci sono interi settori della nostra economia, penso all'agricoltura, che si basano quasi esclusivamente sui fondi comunitari. Prima però dicevo la borsa. Giornata positiva grazie allo spread in calo, diciamo una tutta sotto i 340 punti, soprattutto per Milano più 0,80, Francoforte piatta più 0,16, Parigi più 0,40, Londra non poteva che fare più 0,07%, sapete che una mia freddura classica. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, le banche bene grazie allo spread, più 3,60% Milano, la Pop Milano, scusatemi, e poi Intesa San Paolo più 2,40, Popolare Emilia Romagna più 1,50, Unicredit più 0,75%. Bene però oggi anche Diasorin e Mediaset, più 3%. Sì, le banche, come dicevi tu, ieri erano state tra le più colpite, sì. Oggi hanno recuperato terreno proprio grazie allo spread in calo, ma è stata una giornata di ricoperture e recuperi anche in generale per la maggior parte dei titoli che hanno guadagnato terreno. Non ci sono grandi storie oggi, anche perché appunto è stata una giornata di recupero dopo il lieve calo di ieri. Domani Wall Street è chiusa per il giorno del ringraziamento, quindi diciamo che gli investitori si preoccupano soprattutto di scelte di investimento tecniche come ricoperture e ripresa di posizione sui titoli che avevano perso terreno. È anche il caso proprio dei titoli che hai citato tu, di Assorin e Mediaset. Non ci sono notizie particolari su nessuno dei due, si tratta di un movimento tecnico dopo che ieri e nelle ultime sedute gran parte dei titoli avevano perso un po' di terreno. Dicevamo appunto dei due titoli, ma bene anche l'Ottomatica, e oggi le notizie non sono moltissime, devo dire. e anche Fiat, al di là dei report che a me non piacciono, però oggi recupero Fiat intesa come auto, più 1,60%, mentre Fiat Industrial perde lo 0,36%, Fiat e l'automatica. Quanto riguarda Fiat, comunque ieri appunto era perso terreno per colpa di quel report che paventava un aumento di capitale per il gruppo, quindi oggi molti investitori sono tornati sul titolo approfittando proprio della discesa di ieri. Ci si concentra in particolare sulle indiscrezioni che riguardano i prossimi modelli che potranno essere prodotti a Mirafiori, si tratta, come in base a come era previsto, di segmenti di auto nei segmenti top, quindi sono confermerebbe la strategia del gruppo per gli stabilimenti italiani, quindi niente che abbia fatto preoccupare gli investitori. Per quanto riguarda l'automatica, qui si tratta proprio di un ritorno degli investitori sul titolo che dopo essere salito molto in vista della trimestrale, la trimestrale era stata buona e a quel punto erano scattati i realizzi, dopo quindi qualche seduta di discesa oggi gli investitori sono tornati a riprendere posizione sul titolo. Meno 1% Ansaldo STS e anche il Monte dei Paschi, meno 0,80 Mediobanca e Buzzi Unicem. Tra i migliori peggiori in assoluto invece citiamo la Juventus, andava bene oggi, no? Sì, perché la partita è andata con bene. Chelsea, certo. Vedo, no. Controlla quanto sta finendo adesso. Comunque Antichi Pelletieri più 35,6, Bastoggi più 9,33, Brioschi più 8,70%, tra chi invece ha più perso Best Union Company meno 7,23, Sintesi meno 5,33%. Camfin oggi? Camfin, intanto lei ti dico la Juventus, sì, che ha chiuso a più 0,7%. Ah no, sembrava di più. Ha fatto di più, poi ha limitato. Sì. E sul finale, per quanto riguarda Camfin, all'inizio di mattinata erano prevalse le prese di beneficio dopo l'exploit di ieri, ma invece ha chiuso di nuovo in rialzo più 1,92%. Il mercato crede proprio che il riassetto della galassia Pirelli possa passare attraverso un'OPA su Camfin, e quindi anche oggi sono prevalsi gli acquisti. Ieri la Marco Tronchetti Provera aveva annunciato l'esclusiva concessa ai fondi Clessidra Invest Industrial proprio per trovare un riassetto societario ai piani alti della catena di controllo di Pirelli. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi torniamo a occuparci di Europa, questa volta non per la Grecia, ne abbiamo già parlato ampiamente, ma perché domani, tra domani e dopodomani, in Europa, a Bruxelles, bisogna discutere il bilancio europeo, cioè la finanziaria, chiamiamola così, insomma. Il budget per il 2014-2020, che riguarda tutti i 27 paesi dell'Unione, e non c'è accordo su questo pacchetto che, secondo la proposta di partenza redatta dal Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy, varrebbe 1.010 miliardi in 6 anni. Dicevo, importantissimo, perché per esempio l'agricoltura vedrebbe attribuirsi 44 miliardi, parliamo del 2013, ci sono 138 miliardi che andrebbero solo nel 2013, 44 per l'agricoltura, per la PAC, e gli unici soldi che riceve la nostra agricoltura, poi 49 miliardi di fondi per la coesione, che vuol dire quelli per le aree più depresse, importanti, se poi anche li sapessimo utilizzare soprattutto al sud sarebbe meglio, e via così. Adriana Ceretelli, corrispondente editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera Adriana. Buonasera. Ti sentiamo un po' male, adesso vediamo se riusciamo a risistemare il collegamento. Tu oggi scrivi in prima pagina sul Sole 24 Ore perché alzare la voce serve. Il ministro Moavero ha detto: attenzione, se non ci fate uno sconto, visto che noi siamo contribuenti netti, cioè noi versiamo più di quanto riceviamo l'Europa, 5 miliardi in più, non ci fate uno sconto, noi potremmo anche mettere il veto. Di nuovo in diretta, dunque, Adriana Ceretelli, perché dobbiamo alzare la voce su questa trattativa che parte domani sul budget europeo? Ma sostanzialmente perché noi siamo in una posizione molto scomoda, nel senso che Tradizionalmente fino al 2000 siamo sempre stati dei beneficiari netti del bilancio, perché abbiamo sempre avuto questo dualismo del nostro paese nord-sud, e quindi un sud bisognoso di aiuti, avendo forti ritardi di sviluppo e necessità di recuperarli. Al tempo stesso però dal 2000 siamo diventati anche contribuenti netti, il che significa che ogni anno versiamo al bilancio qualcosa come 5 miliardi al bilancio europeo, 5-6 miliardi. Di questi, un miliardo a nostro carico riguarda lo sconto che bisogna fare, cioè la contribuzione che tutti i paesi danno per lo sconto britannico di 3,6 miliardi all'anno. Ora, naturalmente, se si taglia l'ammontare totale del bilancio pluriennale, i capitoli che soffrono sono quelli dell'agricoltura, in particolare degli aiuti diretti e i fondi strutturali. Questo avviene non solo per i tagli, ma anche perché la riforma Cholos sull'agricoltura ci ha penalizzato nei criteri di distribuzione degli aiuti diretti, che sono la parte più sostanziale degli aiuti europei. E al tempo stesso le riforme dei criteri per la distribuzione dei fondi strutturali tendono a rivedere sia i criteri della prosperità relativa dei paesi, sia quelli della disoccupazione. Il risultato è che vengono favoriti i paesi assolutamente più poveri, cioè quelli dell'est, e le nostre regioni, soprattutto quelle in transizione, tipo Abruzzo, Molise, eccetera, rischiano di essere tagliati fuori. Quindi noi su questo fronte abbiamo sicuramente un danno che è impossibile calcolare con esattezza, ma che sulla base delle proposte sul tavolo supera i 10 miliardi. Al tempo stesso però, dal lato delle uscite nostre, dei nostri contributi al bilancio, rimarrebbero sia per questo settennato l'attuale situazione dei contributi nazionali, quindi non cambierebbe nulla, sia se non ci saranno delle variazioni, il nostro contributo allo sconto inglese rimarrà tal quale, il che significa in sostanza che verremmo sicuramente molto danneggiati. Per questo bisogna alzare la voce. Ora, come si alza la voce in una trattativa europea dove si decide all'unanimità, come in questo caso? L'unico modo è agitare seriamente la minaccia del veto nazionale. Certo. Tu hai chiarito molto bene perché fino a una certa data, il 2000, noi ricevevamo un po' di più di quanto non versassimo, perché l'Italia è almeno doppia se non tripla, perché c'era la parte del nostro mezzogiorno che riceveva i fondi di coesione, e perché dopo, con allargamento verso est, verso paesi con reddito pro capite e PIL più bassi del nostro, riceviamo meno. E fai bene a ricordare che il diritto di minacciare il veto è l'unico modo per ottenere qualcosa. Angela Merkel però oggi ha detto: se non vi sarà l'accordo domani o dopodomani, si può comunque fare all'inizio del 2013 in caso di emergenza. Come la legge è già, mentre ricordo che è arrivato il sì definitivo, ma dal Parlamento di Strasburgo, ai 670 milioni per il terremoto dell'Emilia. Questo secondo te vuol dire che Angela Merkel non ha intenzione di chiudere adesso? No, secondo me vuol dire che è un segnale soprattutto agli inglesi. Nel senso che a quelli che hanno questo sconto britannico, alcuni ascoltatori ci chiedono cosa vuol dire sconto britannico. Tu, prego. Dunque, se volete ve lo spiego, ma sono quelle cose europee noiosissime. No. Nel lontano 1984. No, ti prego. No, ecco, vabbè, lascio perdere. Ma comunque che loro si sono blindati con uno sconto eterno, in quanto è scolpito nei trattati europei. Quindi non c'è niente da fare, a meno che non si voti all'unanimità per cambiare, ma siccome loro non saranno mai d'accordo, questo sconto rimane. Lì. Lo sconto Thatcher, Lo sconto Thatcher, quello del famoso I want my money back. Sì, I want my money back, voglio i miei soldi indietro. È quel famosissimo urlo. Ecco, Thatcher. Secondo te questo cosa vuol dire? È un messaggio alla Gran Bretagna, quello della Merkel? No, è un messaggio alla Gran Bretagna, per cui noi se voi volete fare qualche cosa di positivo e chiudere, noi siamo disposti. Non abbiamo fretta, e in un certo modo può favorire anche l'Italia questo che dice la Merkel, perché è chiaro che se si vuole chiudere subito Per l'Italia diciamo è una drammatizzazione l'uso del diritto di veto, perché non esiste nella nostra storia, non l'abbiamo mai fatto. D'altra parte, questa volta, se non si facesse così, non se ne uscirebbe se non con le ossa rotte. Quindi diciamo il fatto che la Merkel dice io non ho fretta, cambia un po' le carte in tavola, forse toglie un po' di pressione anche su di noi. La Merkel è sempre stata quella che invece diceva io vorrei chiudere. Per cui, diciamo, perché la Merkel all'improvviso dice questo? Ma forse perché alla fine non ritiene che questa trattativa possa danneggiarla più di tanto sul piano elettorale, anche perché sembrerebbe che i tagli che oggi sono a 75 miliardi potrebbero salire a 100 miliardi.